voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. Ci credo e sarò forte, capirò che sono grande. Sai quante volte già mi son perso, fermo a guardare l'universo. Giocar sempre con il presente, questo è tutto e non è niente. Rischiare un po' sicuramente è più divertente. Ci proverò serenamente con tutto quello che posso sempre. Sera, ho un po' paura, mi organizzo, sarò presente. E poi domani, ancora giorno, c'è chi dice che ritorno. C'è problema, mondo felice, c'è chi ha fretta, c'è chi aspetta, c'è chi è seduto e chi deluso, ora cammina e trova un senso. Ci proverò. Arrivai con 2 settimane di ritardo all'appuntamento con Rémy Boncoeur. Il viaggio in autobus da Denver a Frisco si svolse senza particolari avvenimenti, se non che tutta l'anima mia esultava sempre più man mano che ci avvicinavamo a Frisco. Di nuovo Cheyenne, questa volta nel pomeriggio, e poi ad ovest, oltre la catena di montagne. Superammo lo spartiacque a mezzanotte a Creston. Arrivammo a Salt Lake City all'alba. Una città di bacchettoni, il posto più inverosimile nel quale Dean potesse nascere. Quindi più oltre, verso il Nevada nel sole ardente. Reno prima di notte, con l'ammiccare delle luci nelle sue strade cinesi. Poi su, verso la Sierra Nevada, pini, stelle, baite di montagna simboleggianti storie d'amore di Frisco. Una ragazzina nel sedile di dietro che piagnucolava con sua madre: «Mamma, quando è che arriviamo a casa, Truckee?» e poi tra chi dal sapore di casa e quindi giù, per le colline verso la piana di Sacramento. Mi resi conto all'improvviso che mi trovavo in California. Caldo, aria balsamica, un'aria che si poteva baciare e palme. Lungo lo storico fiume Sacramento su una super autostrada, ancora nelle colline, su, giù, e improvvisamente il largo espandersi di una baia. Era proprio prima dell'alba, con le luci assonnate di Frisco che la attraversavano a ghirlande. Sul ponte di Oakland Bay mi addormentai della grossa per la prima volta dopo Denver, così che nella stazione degli autobus all'incrocio fra Market Street e la Quarta ripiombai rudemente nella consapevolezza del fatto che mi trovavo 5.500 km dalla casa di mia zia a Paterson, nel New Jersey. Questo era ancora Sulla strada di Jack Kerouac. Oh, Era veramente da tantissimo tempo che non compariva Slow Fast di Soul Seppi all'interno di Eclettica, ma come dimostrano anche gli amici preferiti sulla pagina di Eclettica di MySpace, lei è sempre nel cuore di chi vi sta parlando, ovvero sia Giulio Caperdoni, che ha aperto la seconda parte anche per quanto riguarda quest'oggi, tutti i giorni tra le 19 e le 20 sulle frequenze di Rock FM. Qualche altro dettaglio in più mi sembra il momento giusto in cui darlo: l'indirizzo di mail giulio@radiorockfm.com. per iscriversi alla lista nera di Eclettica basta mandare un mail a questo indirizzo e iscritti alla lista nera poi riceverete le playlist della trasmissione, come anche la possibilità di partecipare solo gli iscritti alla lista nera a determinati concorsi, come quello che partirà fra qualche giorno, che vi permetterà di andare gratuitamente a vedere tutte le serate del Next Tech a Firenze. Cominciate a puntarvi questa cosa, ma solo se siete iscritti alla lista nera potrete vincere gli abbonamenti a tutto il festival. E poi altri riferimenti sono quelli del sito myspace.com/eclettica e, andando più sul generale, quello della radio www.radiorockfm.com. Vi siete anche ascoltati proprio all'inizio di questa seconda parte Vittorio Cane con l'aiuto di Mao con il pezzo Ci proverò, ed ora invece è la volta di New York, una città che sta dando veramente tantissimo, perlomeno in termini di quantità negli ultimi mesi, alla discografia mondiale. Un EP da parte dei Gang Gang Dance intitolato Raw War, con un gioco di parole, palindromo, che esce l'11 di settembre, una data simbolo che viene utilizzata da molti per far uscire le loro nuove prove discografiche, esce per The Social Registry e noi ci ascoltiamo il pezzo dal titolo Nico Man. We'll be right back. gin joints in all the towns in all the world, she walks into mine. Thank you. Mi avviai incerto come un fantasma macilento, ed eccola là, Frisco. Lunghe, desolate strade con i fili dei filobus tutti avvolti nella nebbia e nel biancore. Andai incespicando per alcuni isolati. All'alba, misteriosi straccioni, all'angolo fra la Mission e la Terza, mi chiesero una moneta. Sentii della musica da qualche parte. Perbacco, tutto questo lo osserverò poi, ma adesso bisogna che trovi Rémy Boncoeur. Mill City, dove abitava Rémy, era un agglomerato di baracche in una vallata, baracche costruite dal governo durante la guerra per alloggiare gli operai dei cantieri navali. Si trovava in un canyon, particolarmente profondo anche, fittamente alberato da tutti i lati. C'erano appositi spacci e botteghe di barbiere e sartorie per la gente che vi abitava. Era, così dicono, l'unica comunità d'America dove bianchi e neri vivessero insieme di loro spontanea volontà. Ed era vero, ed era un luogo così scatenato e pieno di gioia come non avevo mai visti fino ad allora. Sulla porta della baracca di Rémy c'era il biglietto che lui ci aveva affisso 3 settimane prima. «Sal paradiso!» a lettere maiuscole, in stampatello. «Se in casa non c'è nessuno, entra dalla finestra», firmato Rémy Boncoeur. Questo era ancora Sulla strada di Jack Kerouac. So Elisha come down to the empty place, the pyramids and cones were shining in his face. I bought a dozen rings to strew about his feet. Elisha looked at me and said, "I still eat meat." Time is almost over now. These are the last gray seconds. Eclettica. Stagione numero 13, settimana numero 46, volume numero 3. Indice. Adriano Modica. Akron Family. A Place to Bury Strangers. The Most Serene Republic. Asobi Sexu, Jennifer Gentle, Vittorio Cane assieme a Mao, Soul Seppi, Gang Gang Dance, Simple Kid, Robin Hitchcock. Giulio Caperdoni vi saluta, vi ringrazia e vi rimanda domani, sempre alle ore 19, sulle frequenze di Rock FM.